Letture di Radio 24. Le edizioni San Paolo pubblicano la prima biografia completa di Papa Giovanni Paolo I. L'autore è Marco Roncalli, che ricostruisce la vita e il pensiero di Papa Luciani a partire dai suoi scritti e dagli archivi che custodiscono le testimonianze della sua attività, prima come seminarista, poi come sacerdote, come vescovo di Venezia e infine come Papa. Di fronte alle sfide della modernità con le quali la Chiesa Cattolica era continuamente chiamata a confrontarsi, Albino Luciani ha sempre saputo conciliare rispetto delle tradizioni e apertura verso un confronto. Nel 1969, quando era vescovo di Vittorio Veneto, dopo aver invocato una dottrina che dichiarasse lecito l'uso dei contraccettivi a determinate condizioni, nel suo libretto Pensieri alla famiglia, Albino Luciani esprime alcune caute concessioni alle unioni di fatto e si dichiara disposto ad accettare una loro legalizzazione come male minore. La singolare posizione espressa pubblicamente alcuni mesi prima di essere nominato patriarca di Venezia è testimoniata dalla sua risposta a quanti chiedono il suo pensiero sulle riforme del diritto di famiglia. Luciani, consapevole di assumere una posizione più aperta di altri presuli, afferma: premessa qualche precisazione, io sto per le riforme. Raccomanda di superare l'impianto legislativo di orientamento discriminatorio e di riconoscere alla donna, nell'ambito della famiglia, quella pari dignità e potestà giuridica, sottolineata anche nella Gaudium et Spes. Prendendo posizione sulle lacune della progettata riforma e senza chiudere gli occhi innanzi a casi dolorosi per i quali il divorzio è prospettato come l'unica soluzione, Luciani si chiede: ma qualche rimedio fuori dal divorzio non si può proprio trovare? E qui, forse valicando gli stessi limiti della riforma del diritto familiare, ecco il suo pensiero sulle unioni di fatto, proposte come male minore, proprio nella speranza, attraverso questa concessione, di evitare l'introduzione del divorzio. Luciani riteneva che esse non dovessero ottenere una piena equiparazione giuridica al matrimonio, ma considerava necessario garantire loro un sufficiente riconoscimento sul piano legislativo. Luciani, ha commentato Giovanni Vian, cercava una soluzione accettabile dal punto di vista dottrinale e insieme realmente praticabile per le molte situazioni irrisolvibili. La legalizzazione delle unioni di fatto gli pareva assicurare alcune garanzie ai contraenti, specie alla donna e agli eventuali figli, lasciando aperta la via d'uscita delle separazioni, senza mettere in discussione il concetto sacramentale di indissolubilità del matrimonio, che per lui era ciò che più di tutto contava. Ne conseguiva la sua implicita opposizione al matrimonio civile, in una prospettiva di cristianità che riconosceva come unico vero matrimonio quello cattolico. Ma appare chiaro anche il suo tentativo di offrire una soluzione pragmatica a quelle situazioni di tensione che rendevano insostenibile il mantenimento di un rapporto di coppia. Insomma, abbracciando il ministero del vescovo di Vittorio Veneto e passandone al vaglio la produzione pastorale, si finisce per prendere atto di uno stile che ha una sua cifra originale, se raffrontato ad esempio a quello di altri confratelli, veneti e non. Tale cifra sta, come si è appurato, in una sensibilità pastorale spiccata, oltre che nell'attitudine a non evitare le principali questioni chiave che alla fine degli anni Sessanta erano oggetto di lacerazioni nelle comunità ecclesiali, come nella società, tanto a Vittorio Veneto quanto in molte altre parti d'Italia. E al di là delle singole prese di posizione richiamate, il dato emergente è la costante e consapevole volontà di ricerca di quella che si potrebbe definire una sorta di metriotes pastorale, ovvero la virtuosa e paziente mediazione tra la soda dottrina tradizionale e le nuove esigenze poste dalla realtà socio-ecclesiale italiana di quegli anni, considerata da Luciani la via maestra per affrontare le sfide del suo tempo, ha sintetizzato Marcello Malpensa. E qui questo concetto greco evocato, metriotes, rinvia, applicato a Luciani, a parole come misura o equilibrio, prudenza o moderazione. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Marco Roncalli, Giovanni Paolo I, Albino Luciani, edizioni San Paolo, 736 pagine, 34 euro.